D'altronde ha dato tanto, ma ha 74 anni. Ma la troviamo su tutti i giornali, eh? Opera, va in scena la scenata, sul Messaggero. Fracci e Alemanno sul ring. Poi ci sono anche le varie versioni, c'è cioè farabutto, vergogna. L'ultima crisi di nervi VIP, la Fracci aggredisce Alemanno. Questo sul giornale. La danzatrice, 74 anni, si infuria per il mancato rinnovo del contratto di direttrice di Corpo d'Avallo e la vista del sindaco lo copre di insulti. Tanto Massimo Gramellini, in prima pagina della Stampa, dedica il suo buongiorno a questo, a dire... Nel replicare in pubblico a Carla Fracci, che si era appena scagliata indice sguainato, il sindaco Alemanno ha spiegato che la direttrice del corpo di ballo dell'opera ha fatto il suo tempo. È giunto il momento di dare spazio ai giovani. Solo che il sostituto della Fracci è il coreografo belga Misha Van Hoeke, che di anni ne ha 66. Dunque da 74 della Fracci si passerà ai 66. Ma d'altronde, scrive Gramellini, è così, siamo un paese per vecchi e quindi è normale. Ci auguriamo che il 66enne Van Hoeke non debba pagare un prezzo troppo alto alla sua inesperienza. Allora, vergogna, buffone, insomma è finita così. Ci fermiamo anche noi. Questa era una segnalazione di oggi dai giornali. Dovete votare il sondaggio su radio24.it nella home page, bianco o nero, parliamo di Afghanistan, vi chiediamo se secondo voi sia giusto mantenere la presenza militare in quel paese. Sono le 8 e 17 minuti, buongiorno e ben ritrovati, siamo con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Si mette a posto la pashmina. Mi dava fastidio, mi sono dovuta sistemare un attimo. Si veste in onda. L'intervento non viene al meglio, vabbè. Quindi devo agevolare la voce, la gola. Certo, adesso ha la pashmina a posto, può parlare. Allora, lo avete sentito, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio. Questo è un tema che davvero viene seguito con grandissima attenzione sempre dai nostri ascoltatori. Oggi saranno ancora più attenti. Parliamo della nostra spesa come automobilisti e proprietari di un'automobile per l'RC Auto. La novità l'avete sentita. L'Antitrust, l'autorità garante del mercato, ha avviato un'indagine per verificare l'andamento di prezzi e costi nel settore, perché secondo l'autorità questi prezzi sono aumentati in maniera enorme nonostante le riforme degli ultimi anni. Ovviamente si è scatenata la consueta guerra di cifre. Di fatto, al di là di quello che dicono le associazioni di consumatori e al di là di quanto può certificare l'ANIA, l'associazione di settore, o per esempio l'ISVAP, adesso li sentiremo, che è l'autorità che invece vigila sul mercato assicurativo, questi aumenti ci sono stati, continuano a crescere appunto i costi per assicurare la nostra automobile. E allora noi stamattina cercheremo intanto di indagare un po' meglio nell'ambito della stessa indagine dell'Antitrust su cosa vuole vedere chiaro, e soprattutto cercheremo, se possibile, di dare altre indicazioni ai nostri consumatori per potersi a questo punto difendere da questa situazione, perché sembra davvero indifendibile a dispetto dei numerosi strumenti che abbiamo per poter trovare sul mercato la tariffa più conveniente per noi. E in ogni caso queste tariffe crescono tutte quante, per cui davvero è una caccia, come dire, impari. Allora io saluto e ringrazio per essere questa mattina a Soldi e Dintorni con noi Marco Cecchini, direttore delle relazioni esterne e rapporti con le istituzioni dell'ISVAP, come vi ripeto l'istituto che vigila sul mercato assicurativo. Dottor Cecchini, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E allora, volevo dare qualche cifra per renderci conto di cosa stiamo parlando. L'RC Auto, ha ricordato l'Antitrust, è uno dei mercati principali nel settore assicurativo. Nel 2009 la raccolta premi ha superato i 17 miliardi di euro, con un'incidenza del 46% abbondante sul totale rami danni. E sempre secondo dati Istat, nel 2007, quindi nel frattempo saranno ulteriormente aumentati questi costi, ciascuna famiglia ha speso in media per l'assicurazione dei mezzi di trasporto privati 940 euro annui, pari all'1,2% del PIL. E voi ieri avete, come ISVAP, dottor Cecchini, ulteriormente confermato la tendenza al rialzo dei prezzi. Per esempio, ci racconti un po' ad aprile cosa è successo? Beh, ad aprile le nostre rilevazioni ci dicono che c'è stato un ulteriore aumento dell'1,1% rispetto a gennaio, che era stato un mese, diciamo, nero, in quanto vi era stata un'impennata che aveva sfiorato il 14%, che in un trimestre è una cifra molto importante. Noi abbiamo un'idea molto precisa, perché essendo l'autorità di controllo del settore questi dati li maneggiamo costantemente e li monitoriamo trimestralmente. attraverso le nostre rilevazioni. La nostra idea è che la causa, una delle cause principali di questa situazione è che a fronte di un aumento della pressione competitiva non vi è stata da parte delle imprese un sufficiente investimento in efficienza, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto delle liquidazioni, cioè quella che, tutto ciò che riguarda, diciamo, le spese per le imprese, ciò che le imprese spendono per liquidare sinistri e quant'altro. Quindi, essendoci stata una pressione sui prezzi finali, ma non un corrispondente riduzione dei costi, è chiaro che a un certo punto i conti delle imprese sono andati in sofferenza e le imprese alla fine hanno reagito tornando ad aumentare prepotentemente i listini. La soluzione per noi quindi va cercata in una maggiore efficienza da parte delle imprese. Tra l'altro la stessa ANIA, l'associazione di categoria delle imprese assicurative, da tempo, da mesi avvertiva che questa situazione andava, io utilizzerei questo termine, deteriorandosi, perché ovviamente questo è quello che capita poi per i consumatori. Il presidente Cerchiai aveva più volte avvertito che la situazione di sinistri in aumento e premi e nuove sottoscrizioni di contratti in calo avrebbe provocato anche questo aspetto, un ritocco all'insù delle tariffe, proprio perché, come diceva il dottor Cecchini, i conti non tornano e quindi anche la crisi economica in qualche maniera ha dato un'accelerata alle tariffe, appunto, certo, in aumento. E l'antitrust mette però sotto osservazione, dottor Cecchini, tutto l'ambito delle riforme che sono state messe in campo negli ultimi anni e che non hanno prodotto gli effetti desiderati. In particolar modo, sotto i riflettori c'è il meccanismo dell'indennizzo diretto. Ci può ricordare in che cosa consiste per i consumatori che non conoscono questo meccanismo e perché secondo voi, non so se anche secondo voi, insomma, anche questo aspetto avrebbe potuto portare una riduzione delle tariffe, un alleggerimento, invece siamo andati in direzione totalmente contraria? Ma ripeto, il nostro focus è fondamentalmente su questi aspetti che riguardano le liquidazioni della macchina, diciamo, liquidativa delle imprese. Perché l'indennizzo diretto peraltro agisce proprio lì. Esatto, e su questo io vorrei sottolineare che noi abbiamo aperto una nostra indagine conoscitiva cercando di analizzare le politiche liquidative delle imprese, i cui risultati verranno resi noti a breve, che stiamo analizzando e sulla base della quale poi vedremo che provvedimenti prendere. Ma la riforma del risarcimento diretto è un'importante riforma che sostanzialmente funziona in questo modo. Tu, se hai un incidente con una tua controparte, non vai a chiedere il risarcimento all'assicurazione della tua controparte, ma ti rivolgi alla tua assicurazione, la quale provvederà poi a svolgere tutte le pratiche necessarie affinché tu poi venga, se diciamo sei in hai ragione, se sei dalla parte giusta, venga risarcito adeguatamente. Tutto questo ha in principio un effetto molto importante sulla riduzione dei costi complessivi delle imprese, e lo ha anche avuto in una certa misura, perché innanzitutto i tempi di liquidazione sono diminuiti e sono passati da 63 a 55 giorni, e anche i costi medi dei risarcimenti sono diminuiti. Naturalmente questa però è una componente del complesso dei costi che le imprese di assicurazione devono affrontare quando vanno a liquidare un sinistro. Poi ci sono problematiche legate alla presenza, diciamo, alla consistenza di queste strutture, cioè se io in regioni dove c'è una alta sinistrosità, come possono essere, non so, la Campania sì, sempre il grande osservato speciale del settore, sì. Sguarnisco le mie strutture, se io sovraccarico il lavoro degli ispettori, è chiaro che poi più facilmente posso incappare in truffe, in frodi, oppure posso finire per essere di manica larga sulle liquidazioni. Questo naturalmente finisce per alzare poi tutto il livello dei miei costi medi. Quindi noi riteniamo che quella sia la strada e quello sia il punto dolente su cui occorre agire per arrivare a una abbassamento dei costi generali delle imprese e quindi che si rifletta poi in una riduzione dei prezzi finali. L'ANIA, peraltro, proprio a proposito dell'aspetto che lei stava toccando, ha chiesto più volte, lo ha rimarcato anche ieri commentando l'avvio dell'indagine dell'antitrust, che peraltro è partita il 6 maggio. L'ANIA diceva appunto di continuare a sollecitare il legislatore verso la costituzione di un'agenzia antifrode, proprio anche per combattere questi aspetti che poi magari potrebbero possibilmente anche riversarsi sulla struttura dei costi delle tariffe di conseguenza. Dottor Cecchini, io tra l'altro tra un minutino devo salutarla, per cui vorrei dare un'ultima indicazione. Questo è un tema sul quale torneremo sicuramente anche con Salva Danaio, rimettendo insieme tutti gli attori del sistema per affrontare in maniera ancora più approfondita questa questione, perché è una voce di spesa presente all'interno di tutti i nuclei familiari. Certo. Per cui le chiedo, Molto importante. Tanti preventivatori, voi avete quello istituzionale, l'ISVAP, proprio il comparatore delle tariffe, tutto il sistema lì dentro. Molte associazioni dei consumatori dicono sì, strumenti molto utili per trovare la tariffa più efficiente per la famiglia, e poi qualche volta invece succede che magari io lì trovo la tariffa, vado dalla compagnia per sottoscrivere il contratto e il contratto che mi viene sottoscritto è diverso e la tariffa è più alta. Insomma, anche questo sembra essere diventata un'altra giungla dalla quale non è possibile difendersi. Un'ultima raccomandazione ai nostri consumatori, dottor Cecchini. Andate sul preventivatore unico dell'ISVAP e del Ministero dello Sviluppo Economico, vi fornisce una gamma di preventivi dal più alto al più basso per le vostre esigenze in materia di RC auto, ve li fornisce, sono preventivi ufficiali, sono preventivi che hanno il timbro, diciamo, dell'istituto di controllo e di vigilanza. Per cui la compagnia deve rispettarlo, quella promessa di contratto. E vi assicuro, il preventivatore negli ultimi, da quando è nato, cioè nel giugno dell'anno scorso, è uno strumento di successo, ha avuto quasi 200.000 preventivi, è abbastanza un record considerando che noi per esigenze di risparmio non abbiamo investito una lira in propaganda e in pubblicità su questo strumento. Benissimo, dottor Cecchini, io la saluto, la ringrazio e ricordo che ce ne sono altri anche di natura commerciale, assicurazione.it, la tua assicurazione sei sicuro, ma magari esattamente, no, per curiosità magari comunque si può ulteriormente fare un confronto anche con questi strumenti, perché sono sicura che siano utili anche loro. Grazie e buona giornata, presto. Voi buongiorno. Oggi è Salva Danaio, scenario mercati con Mario Noera, presidente dell'AIAF, associazione degli analisti finanziari, quindi vedremo un po' euro e mercati. Ciao Alessandro. Come va? Grazie, a domani. Noi parliamo di Afghanistan. Secondo voi è giusto mantenere la presenza militare? Vi chiediamo questo su radio24.it, dovete votare bianco o nero. Sono le 8:34 minuti e 30 secondi, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo di Afghanistan. Vi chiediamo, secondo voi è giusto mantenere la presenza militare lì? È il nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Dovete votare su radio24.it. C'è da dire che però vi state dividendo, il 53%, una lieve maggioranza dice di no. 800 24 00 24, se volete intervenire, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ieri qualcuno scrive sui giornali, si è un po' incrinato anche il fronte all'interno della maggioranza per una breve dichiarazione, per la verità, del ministro Calderoli, che voleva andare a risentire. Il ministro Calderoli parlava a Maurizio Belpietro a Mattino 5, sentiamo cosa ha detto. Al di là delle vite umane che fanno veramente spaccare il cuore, però bisogna verificare se questi sacrifici servano meno a qualcosa, però c'è una comunità internazionale e vediamo di prendere decisioni insieme a loro. Bisogna verificare se servono i sacrifici, poi Bossi in giornata invece ha parlato, ha detto sostanzialmente che bisogna rimanere lì. In ogni caso le vittime, come detto, sono due, Luigi Pascazio e Massimiliano Ramadù. Notizie che arrivano purtroppo da Kabul: oggi c'è stato un nuovo attacco a un convoglio americano a Kabul, almeno sarebbero 20 le vittime, in questo caso soprattutto civili, ma anche forse alcuni soldati americani, pare due, potrebbero essere coinvolti. Certo, ogni volta che si pone questa problematica si ripone il problema della missione militare nostra italiana. Voglio salutare il senatore del Partito Democratico Mauro Del Vecchio, buongiorno. Buongiorno a lei e agli radioascoltatori. ascoltatori. Senatore Del Vecchio, lo ricordiamo, anche un generale, è stato comandante tra l'altro della missione ISAF in Afghanistan. Saluto anche Fausto Biloslavo, collega, profondo conoscitore del paese. Fausto, buongiorno e ben ritrovato. Salve, buongiorno a tutti. Allora, ma generale Del Vecchio, senatore Del Vecchio, sì, perché dobbiamo rimanere in Afghanistan? E questa è la domanda che alcuni si pongono, ovviamente a maggior ragione se la pongono quando i fatti di cronaca ci pongono di fronte a questi drammi. Certo, questi sono momenti terribili per tutti, naturalmente, che inducono alla riflessione e all'approfondimento circa la presenza nazionale in quel paese. Però per dare una risposta a questa sua domanda, che è la domanda centrale, credo che bisogna un po' risalire a quali sono le ragioni per cui siamo là. Insomma, non possiamo dimenticare che lì intanto non siamo da soli, siamo con la comunità internazionale, 42 paesi che partecipano a questa operazione, ma che sono stati praticamente coinvolti in un'iniziativa dell'ONU, che è il massimo organismo internazionale per la pace del mondo, per difendere i paesi del mondo da una piaga, la piaga del terrorismo. Ricordo che in quel periodo, sto parlando degli anni del 2001, 2002, 2003, molti paesi sono stati oggetti di attacchi da parte del terrorismo. Il terrorismo, ecco, trovava proprio in Afghanistan in quel momento, praticamente, ne parlo degli anni prima del 2001, il cuore, il centro della promozione di queste attività. E quindi praticamente quelle erano le ragioni. Le ragioni purtroppo c'è da dire, continuano ad essere presenti. Non possiamo naturalmente abbassare la guardia. Credo che la comunità internazionale evidentemente sia determinata ancora a difendersi da questa piaga, e credo che naturalmente in questo ambito naturalmente le decisioni non debbano essere prese appunto in un consesso molto ampio, attraverso uno scambio di opinioni proprio da tutti i paesi della comunità internazionale. Cioè, lei dice andare via adesso sarebbe, oggi il ministro Frattini ha fatto un'intervista al Corriere della Sera, andare via adesso sarebbe una fuga, cioè il messaggio migliore per i terroristi che sono lì e dicono: vedete, basta creare un attentato del genere, seminare il panico, e quindi le decisioni politiche vengono prese su questo. Questa è una cosa di cui dobbiamo sempre tener conto. Se le reazioni agli attacchi purtroppo sono nel senso di una di decisioni di abbandonare praticamente questo impegno così difficile, evidentemente mettiamo tra l'altro a rischio l'incolumità dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme. È chiaro che l'insorgenza, la criminalità organizzata, i narcotrafficanti, perché è una commistione naturalmente di questi personaggi, evidentemente se avessero la sensazione che le loro azioni possono scalfire la determinazione della comunità internazionale e dei paesi che partecipano, evidentemente questo sarebbe sicuramente un segnale molto negativo anche per i nostri uomini. E però, insomma, io vorrei andare da Fausto Biloslavo. La storia dell'Afghanistan insegna che militarmente, no, Fausto, tu ce lo puoi confermare, è un paese che, voglio dire, non è stato mai piegato, e questo dalle varie invasioni storiche, no? E allora per questo molti si chiedono che ci stiamo a fare, visto che la storia insegna che questo paese non può essere conquistato, e questo paese non può essere, non è il nostro scopo quello di conquistarlo, voglio dire, ma che questo paese poi alla fine è riuscito a respingere qualsiasi tipo di occupazione straniera. Sì, ce ne fece solo Gengis Khan quando arrivò dalle parti di Herat per piegare la resistenza degli afghani, tagliò la testa a tutti i maschi, dai vecchi ai bambini, insomma, e le mise sulla picca. Ovviamente non penso che sia il caso. In Afghanistan non si vince solo con la forza delle armi, si vince anche conquistando più che il cuore e le menti, il cuore e la pancia degli afghani. Dobbiamo dare agli afghani un lavoro, dobbiamo dare agli afghani da mangiare, dobbiamo dare sviluppo, ricostruzione, dargli una speranza per il futuro. Io ricordo sempre che il 70%, e sono dati del Pentagono, dei talebani sono foot soldier, cioè sono gente che combatte fondamentalmente per $2-3 al giorno, insomma, a seconda delle bande. Beh, paghiamoli noi, insomma, e risolviamo il problema. Però, ripeto, se vogliamo tornare al... Cioè, paghiamoli noi, cos'è, Fausto? Una provocazione? Oppure dici no, la comunità internazionale dovrebbe pagare? No, io penso, cioè, che comprare, sia... comprare, uso questa parola brutta, comprare gli afghani. Io penso che sia una buona idea, insomma, ecco, nel senso che buttiamo via tanti soldi inutilmente in Afghanistan, è una dei pilastri di tutti i tentativi di riconciliazione che sono stati fatti, è quello di garantire al miliziano, all'insorto che abbandona le armi, garantirgli un pezzo di terreno, garantirgli un lavoro, garantirgli ovviamente, insomma, una certa immunità, almeno se non torna a riambracciare Kalashnikov, insomma, ci vogliono soldi per farlo, insomma, ecco. Idem per il discorso dell'oppio, c'è anche qualcuno che pensava, magari compriamolo noi l'oppio e trasformiamolo in morfina, insomma, dato che adesso salterà fuori che in Afghanistan buttiamo via, ed è vero, un sacco di soldi in vari rivoli, in varie attività umanitarie di sviluppo che poi, insomma, vanno a finire come vanno a finire. 800 24 00 24, ci stanno chiamando in molti, come al solito io chiedo di essere sintetici ai nostri ascoltatori, vediamo che ne pensano. Iniziamo da Tiziano da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. È un'osservazione, diciamo, velocissima. I signori qui sono dei professionisti, è vero. I signori qui, sta parlando dei nostri militari, no, italiani? Militari, esatto. Sì. Sono dei professionisti. Cioè, il rammarico per le vittime va bene, però una riflessione è sul fatto che loro sono pagati per il rischio che si corre in questi casi. E quindi? E vabbè, certo, fare il soldato, fare il militare di professione, ah, non è come fare il tassista, con tutto, esatto, con i rischi che corrono anche i tassisti, voglio dire. Mettere in gioco tutta la missione in Afghanistan e quant'altro, secondo me è esagerato rispetto al giusto dolore per le vittime, però cioè, ogni volta non è che dobbiamo ridiscutere tutto. Sono lì anche con questo rischio, questa è la mia... Va bene, quindi questo rischio che corrono, dice, non deve mettere in discussione la questione della nostra presenza. Grazie Tiziano, voglio andare a Modena. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo intervenire circa il motivo per cui, diciamo, siamo in Afghanistan, restiamo in Afghanistan, per l'idea che mi sono fatto leggendo i giornali in base alla storia. Vale a dire? E, diciamo, l'idea che mi sono fatto è questo, che noi siamo lì non per portare la democrazia, non per difendere il petrolio, ma per far sì che la guerra fra noi e loro, fra noi e i talebani, fra l'Occidente e il Medioevo si svolga a casa loro, anziché a casa nostra. È chiaro che potremmo vincere sia se la guerra si svolge a casa nostra che se si svolge a casa loro, cioè vinceremo, però se la guerra si svolge a casa nostra i danni per noi sono molto di più che se la guerra si svolge a casa loro, saranno di più i danni per loro. Io penso che sia questo il vero motivo, altro che portare democrazia. Sarà difficile poter portare democrazia a quelle popolazioni. Quindi lei dice andiamo a fare guerra a casa loro. Va bene, questa è la sua posizione, grazie Leonardo. Io sono o blanco o nero, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Alle 8:46 minuti, eccoci qua, bisogna mantenere la presenza militare in Afghanistan, che ne pensate? Su Radio24.it per ora il 53% dice di no. Siamo con il senatore Mauro Del Vecchio, Fausto Biloslavo, saluto anche Paolo Cento, buongiorno. Buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori. Paolo Cento è stato anche membro del governo Prodi, sottosegretario, anzi vice ministro, credo, Cento. Senta, lei è di quel fronte che dice che ci stiamo a fare lì in Afghanistan sostanzialmente, no? Io credo che ovviamente abbiamo un momento di grande dolore per la morte di questi due ragazzi italiani, e una posizione politica prima di essere espressa deve partire da questo dato di solidarietà e vicinanza umana alle loro famiglie. La scelta di stare in Afghanistan è sempre più incomprensibile e sbagliata, non ha prodotto la pacificazione di quel paese, anzi semmai vi è un'escalation negli ultimi mesi di attentati, non ha risolto in maniera significativa il tema delle regole democratiche, le stesse elezioni in Afghanistan sono oggetto di valutazioni negative da parte di tutti gli organismi internazionali di controllo, e la questione dei talebani non può essere affrontata solo sul terreno militare, come si è fatto in questi anni di presenza dei soldati italiani e del Patto Atlantico, perché i talebani sono una realtà che cresce e si rafforza proprio in virtù. Ma che si fa andando via non sarebbe ancora una crescita da parte di questi talebani? Cioè andare via vuol dire proprio dire no, andare via avete significa... ucciso due militari e quindi noi ci ritiriamo. No, ovviamente no? Non si può, la scelta di andare via non è la scelta di fuga rispetto a un attentato che ha ucciso due nostri soldati. La scelta di andare via va presa con un ragionamento razionale, non emotivo, sull'efficacia di questa missione militare. Ma d'altra parte è talmente vero questo che gli stessi Stati Uniti e gli stessi paesi che partecipano all'alleanza militare in Afghanistan si pongono e si sono posti il tema di indicare una data, che è quella del 2011-2013 come uscita dalla... No, ma che questo sì, io visto... Allora mi domando, questa data da che cosa nasce? È frutto di una fuga rallentata o è frutto della convinzione che l'Afghanistan tra un anno e mezzo sia un paese democratico e pacificato? Questo è un punto interessante, senatore Del Vecchio, visto che la dobbiamo salutare con qualche minuto d'anticipo, ci lasci su questo punto. È perché si dice la missione è a tempo, cioè che vuol dire che nel 2013 o nel 2011 i problemi di Afghanistan saranno risolti e possiamo andarcene via? Naturalmente nel 2013 ancora i problemi dell'Afghanistan non saranno risolti, ma probabilmente sarà più facile lasciare che gli afghani li risolvano da soli. Questa è una delle strategie del Presidente Obama, l'afghanizzazione della crisi è una cosa molto importante. Credo che sia necessario essere determinati su questo aspetto, proprio per evitare, e in questo purtroppo dissento da quanto ha detto l'onorevole Cento, proprio per evitare che si ricreino quelle condizioni che avevano posto quel paese veramente al limite della sofferenza e del terrorismo. Io la ringrazio, senatore, per essere stato con noi. Mauro Del Vecchio, allora prima di tornare anche da Fausto Biloslavo e Paolo Cento, sentiamo Luca da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Dici. Io volevo sapere se la finalità di questo progetto in Afghanistan, a dei politici, deve essere quella di riportare la pace e la democrazia. Ma volevo sapere qual era il progetto che c'era sotto, o era solo una finta per poi... Che vuol dire una finta? Cioè stanno lì per finta? Un progetto per... dare agli afghani, istruire gli afghani, istruire la polizia afghana. Ci sono i nostri italiani, caro Luca, che stanno insegnando, per esempio, la dottrina del diritto, tutto il sistema penale, tutto il sistema della giustizia civile, la giustizia penale. Stanno cercando di spiegare, insomma, come si può fare. Poi si può riuscire o no? Fausto Biloslavo, a che punto siamo in questo complesso progetto, insomma, quello che si definisce esportare democrazia, che poi è un concetto molto molto ampio, molto vago. L'esportazione della democrazia è ovviamente una chimera. Dobbiamo capire che in Afghanistan, come in Iraq, come in altri paesi in stato di crisi, e tra l'altro l'Afghanistan è stato in crisi da 30 anni, bisogna adattarsi a una democrazia afghana. Insomma, adesso ci saranno le elezioni parlamentari il 18 settembre, no? Ne vedremo delle belle, però dico, non possiamo pretendere che un paese in guerra da 30 anni diventi automaticamente come noi, insomma, no? Hai sentito Paolo Cento dice che serve stare lì, insomma, serve per esempio per continuare a far andare a scuola le bambine, oppure non so, Cento vuole che arrivino i talebani o comunque un governo fondamentalista che chiude le scuole per le ragazzine. Serve per esempio perché gran parte del paese nel nord sta tentando, e la stessa zona di Herat sta tentando di rinascere, di ricrescere, c'è anche un minimo di imprenditoria, di economia, insomma. Certo, la gente non ha ancora il frigorifero e la lavatrice, però dico, non possiamo certo abbandonare abbandonarli al medioevo talebano. Serve per esempio perché è una zona strategica, perché se non risolviamo il problema dell'Afghanistan non risolveremo neanche quello del Pakistan e viceversa, oppure vogliamo lasciare che ci siano ancora questi cancri terroristici che si fanno ogni tanto vedere, come è capitato a Times Square, anche se hanno fallito l'attentato nella principale piazza di New York. Paolo Cento, lei non è che vuole il ritorno dei talebani, questo, però voglio dire, se uno sarei in buona compagnia, perché ci sono il 52% degli italiani che dicono no a questa missione e non credo che sono talebani. Io voglio sconfiggere i talebani, ma sono convinto che per sconfiggere l'integralismo talebano sia più utile mandare degli insegnanti ed aprire delle scuole in Afghanistan piuttosto che mandare dei militari. E questo ce lo dice purtroppo la cronaca e la diplomazia internazionale. Sì, ma chi le controlla per le scuole? Voglio dire, il potere politico poi che c'è dietro. Sono più di 5 anni che siamo in Afghanistan e dobbiamo avere il coraggio di dire che questa presenza militare non ha determinato un'autonomia del controllo da parte delle autorità afghane, perché delle due l'una: o questa fase si è conclusa e quindi si può passare a una forte azione civile di sostegno all'Afghanistan, oppure questa fase è fallita. Io credo che anche da parte nostra, di chi ha criticato questa missione, il problema non è più riproporre le ragioni di 5 anni fa. In Afghanistan ci si è andati, la missione si è fatta. L'interrogativo lo poniamo a chi era favorevole a questa missione e ci domandiamo come non si possa trarre un bilancio dall'esito di questa missione. Ripeto, se l'Alleanza Atlantica si interroga sulla fuoriuscita dal 2011 da quel paese, la mia domanda è: ma tra un anno che cosa è cambiato in Afghanistan? Nessuno è in grado di spiegarcelo, perché la situazione è una situazione fallimentare. Voglio anche aggiungere una riflessione sui costi di missioni militari. In un momento in cui si chiedono sacrifici e si parla della necessità di ridurre la spesa pubblica, io vorrei ricordare a noi tutti che la missione in Afghanistan insieme alle altre missioni militari ci costa circa 1 miliardo di euro all'anno. Bisogna risparmiare lì. L'interrogativo è: prima di tagliare i salari e gli stipendi dei dipendenti, dei lavoratori italiani, forse anche per i costi economici, visto lo scarso risultato positivo della presenza militare in Afghanistan, almeno si riapra un dibattito, non sia un tabù. Questo, questo effettivamente mancava, non so Fausto, in 10 secondi, manca il risolvere nella manovra in arrivo di Tremonti, tagliare anche un po', pensare di risparmiare lì. Insomma, già. No, assolutamente. E poi io mi chiedo, quegli insegnanti che Cento vuol mandare, chi li difende, dato che i talebani li sgozzano se vanno a insegnare nelle scuole femminili? Appunto, cioè, questa era la questione, cioè del potere politico, cioè quello che ci sta dietro. Questo è il punto. Però comunque ben venga che si apra un dibattito sull'Afghanistan, che non si parli di Afghanistan solo quando 2 soldati muoiono. Purtroppo fra 3-4 giorni ce ne saremo già dimenticati di nuovo questo, e aspetteremo il prossimo evento tragico. Questo è il disastro che ha sempre contraddistinto la storia tragica dell'Afghanistan. Dimenticati, o quando abbiamo detto beh, ma andiamocene, l'Afghanistan ci bussa alla porta, insomma. Poi grazie Fausto Biloslavo, Paolo Cento, per essere stati con noi. Ci fermiamo, votate su radio24.it. I saluti anche in redazione Sara Spreafico e Peter Bescapè in regia. Do la linea Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina.